a 15 anni dissi va, a 16 anni dissi bene, e da 18 con l'aiuto della zia, dopo lunga malattia dissi va bebè, va bebè, bebè, va bebè. A 21 anni dissi bo, ma faticando anziché no, e da 31 senza aiuto di nessuno, non ricordo come fu, dissi va bebè, bebo bu bu bu bu bebo bu. E bravo, che bravo, sì sì sei proprio bravo, fallo una volta ancora, ti do il cioccolatè. Per dire acqua dico va, per dire vino dico be, per dir bicchiere dico vi, e per avere un bicchiere d'acqua e vino devo dire va bebì, va bebì, bebì, va bebì. Beh, caro Bonino, a 15 anni dicesti va, a 16 anni dicesti beh, e da 18, dopo lunga malattia, ma con l'aiuto della zia, sei finalmente riuscito a dire bì. Però che carriera, caro Ernesto, non avrei mai creduto che tu riuscissi tutto in una volta a dire ba, baby. Che vuoi farci, caro Ravera? A sto mondo si dicono tante di ste fesserie che io preferisco dire ba, baby. Che bravo, ma che bravo, ma che bravo, ma che bravo, bravo, bravo, bravo, sì, sì, sì, sì, sei proprio bravo, e fallo una volta ancora, ti darò due cioccolati. Ma io lo farei ancora una volta, ma è che, no, ho paura di non farcela, capisci? Ma no, prova ancora una volta, e sono certo che i tuoi ammiratori attendono anche loro il ba, beh, bebì, grazie, tu mi dai coraggio, grazie. A 15 anni dissi va, a 16 anni dissi beh, e da 18 con l'aiuto della zia, dopo lunga malattia dissi va bevi, va bevi, bevi, bevi, va bevi. Schille da ri, da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Che bravo, sì, sì. Che bravo, sì sì sei proprio bravo, grazie, grazie. E fallo una volta ancora, ti do il cioccolato. Per dire donna dico boh, per dire bacio dico boh, se voglio un bacio da una donna mi avvicino, fa un inchino, prendo un pugno sopra il grugno, va bebì, va bebì, bebì, bebì, va bebì. Ba baby, baby, baby, ba baby, ba baby, baby, baby, ba baby, ci ba ba, ci ba ba, ci ba ba, ci ba. Beh! Salve.